è questa Maglio, è questa del Senato la legge, il comando di Tito. Con ingiurie più volte, con gli scherni, provoco me con lui. Tu nemmen provocato stringer dovevi il ferro, né del sangue latin bagnar l'arena, ma dell'error ben pagherai la pena. Signor, sfuggi la pugna e ben ti danno i cavalier del Tebro. Ma Geminio uccidesti. Chiamò codardo e vile, Magno di Tito il figlio. Tu che facesti allor? La spada ignuda gli chiusa il labbro, infeme tir tacendo. Colpa nuova giungesti al tuo delitto. E colpo essere invitto. Se la patria la gloria crepi, si atterrò in sobrando tutto il campo latino nel valor di Geminio. Mi si lo vende, chiede le pugne a Tebro dei gloriosi acquisti, perché perdo l'anno.